dimmi si è fatto flebile il dolore se penso a lei. E chi l'avrebbe detto mai che fossi io forte così? Quanto ce n'è, quanto ce n'è di questo mare di errori che noi siamo incapaci di evitare in questo blu. Cerchiamo un'isola per noi dove non sbagliare più, non sbagliare mai più nella nostra follia di voler darsi di più. Accade un po' così come anche ai migratori quando sentono che devono andare, nell'aria c'è un richiamo forte che li attrae e non c'è verso di poterli fermare. Da qui a una nuova meta c'è tanta strada, sai, e lungo la salita chi lascia cade giù, si perde e non sa più salire. Ripenso a lei e non so più che effetto fa, anche se non vorrei, ma chi l'avrebbe detto che come la nebbia ormai se so the-